sirene che cantano per farci penar, sirene che cantano per farci affogarci, vette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, con rose spinosi, con volti vezzosi, con orse benigne, con l'ombre maligne, maestri d'inganni, amiche d'affanni che fingono, mentano amori, non sento, non sento pietà, non sento pietà, non ho donne. Il resto non dico, già ognuno lo sa. Son streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico, son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, con l'ombre maligne, ma resti inganni, amiche da fanni che fingono a mente in amore, non sento, non sento pietà, non sento pietà, non ho. Il resto non dico, c'è ognuno.